Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. Cari ascoltatori, a tutti voi un carissimo saluto. Questa sera trasmetto non dalla mia comunità di Cinisello Balsamo, ma da Riccia, in provincia di Roma, dove tutta la nostra congregazione sta a livello mondiale, sta riflettendo sul nuovo contesto comunicativo per capire, discernere, pregare, riflettere su come portare il Vangelo nel mondo, nella cultura della comunicazione odierna. E mi sembra bello, ecco, trasmettere in questo clima in cui noi continuiamo a leggere la parola di Dio, a meditarla, ad approfondirla, ed è bello anche sentirsi in comunione con la grande famiglia di Radio Maria e affidare questa intenzione, perché non basta solo ascoltare la parola di Dio, approfondirla, bisogna anche comunicarla, testimoniarla, tenendo presenti quali sono i nostri destinatari di oggi. Ecco, nel nostro percorso di lettura continua degli Atti degli Apostoli siamo arrivati al capitolo 20, esattamente nel punto conclusivo del terzo viaggio missionario di Paolo, dove Paolo tiene quel discorso stupendo agli anziani della comunità, quelli che sono incaricati di guidare la comunità. Prima di addentrarci nel testo, invoco insieme a voi la presenza dello Spirito Santo, perché durante quest'ora e mezza che trascorreremo insieme, lo Spirito mi aiuti a non rovinare la ricchezza della parola di Dio, a renderla viva. E anche nella seconda parte di questa trasmissione, dove ciascuno di voi è chiamato a intervenire con una riflessione, con alcune domande, con alcuni approfondimenti pertinenti al testo, ecco che tutto davvero serva ad aprire il cuore, la mente all'accoglienza di questa parola. Come dice il titolo delle nostre riflessioni, di questi nostri incontri radiofonici, la parola fa vivere, quindi questa ora e mezza è un'ora e mezza in cui la vita della parola dovrebbe trascorrere, illuminare non solo la mente, ma entrare nel cuore e far vibrare la vita di ciascuno di noi. Ecco, a questo affidiamo questa intenzione anche all'intercessione della Beata Vergine Maria, che ha custodito, generato e portato per prima la parola di Dio al mondo. Bene, la nostra riflessione quindi continua nel punto esatto dove la volta scorsa abbiamo lasciato Paolo. Abbiamo visto come alla fine del terzo viaggio missionario, prima di dirigersi verso Gerusalemme, Paolo cerca di rivisitare le sue comunità. Solo che nel momento in cui si avvicina alla città di Efeso, dove ha vissuto un tempo lungo e anche particolarmente provato e doloroso, Paolo non se la sente di tornare nella città, ma convoca a Mileto gli anziani di Efeso. Ecco, teniamo presente che con il termine anziano noi traduciamo il greco presbiteros, che con l'andare del tempo sarà poi reso con presbiteri. Ovviamente il ministero odierno non è quello che c'era ai tempi di Paolo, però ci fa capire che questi anziani non sono solo degli anziani cronologici, non sono solo le persone più adulte nella comunità, ma sono coloro che hanno acquisito il dono della sapienza, cioè la capacità di guidare la comunità. Il momento di questo grande discorso che Paolo tiene ai responsabili della comunità ci fa anche capire che la comunità cristiana sta cambiando. Uno dopo l'altro stanno uscendo di scena i grandi apostoli. Paolo sente che anche lui oramai è alla fine della sua esperienza di missionario, almeno lui sente così, poi la vita lo contraddirà un pochino, però lui sente di essere oramai alla fine del suo ministero e quindi c'è l'esigenza di trasmettere il deposito della fede, l'esperienza della fede a chi viene dopo. C'è il volto quindi di una Chiesa che cambia, che passa dall'esperienza diretta dei primi testimoni di Gesù a ai discepoli di questi primi testimoni, coloro che saranno chiamati a traghettare la Chiesa verso un mondo altro. È interessante notare come nello schema narrativo degli Atti degli Apostoli Luca affida a Paolo nei suoi tre grandi viaggi missionari, in ogni viaggio associa Paolo ad un grande discorso, per cui nel primo viaggio missionario, quello che Paolo fece insieme a Barnaba, ci fu il discorso ai giudei, la cornice era quella di Antiochia di Pisidia, al capitolo 13. Nel secondo viaggio missionario il discorso chiave era quello ai pagani, nella cornice della città di Atene, il grande discorso tenuto nell'Areopago. Ora, alla fine del terzo viaggio missionario, il discorso centrale di Paolo è proprio quello agli anziani di Efeso chiamati a Mileto. Siamo quindi in un momento molto, molto particolare. Se vogliamo, ecco, per ragioni un po' di chiarezza, scandire meglio la riflessione su questo viaggio, lo possiamo dividere in quattro parti ed è quello che faremo noi. In una prima parte vedremo Paolo cita il suo esempio, in una seconda parte annuncia il suo destino, in una terza parte invita i responsabili della comunità ad assumere la responsabilità fino in fondo della comunità e infine c'è l'ultima parte in cui Paolo affida questi cristiani, questi responsabili della comunità, alla parola di Dio. Ma mettiamoci subito in ascolto del testo. Invito quanti di voi sono nella condizione di farlo, di prendere un'edizione della Bibbia o dei Vangeli e di andare al capitolo 20 degli Atti degli Apostoli. La nostra lettura inizia dal versetto 18, quindi la prima parte del discorso si snoda tra il versetto 18 e il versetto 21. Ascoltiamo il testo. Quando gli anziani giunsero presso di lui a Mileto, Paolo disse loro: «Voi sapete come mi sono comportato con voi per tutto questo tempo, fin dal giorno in cui arrivai in Asia. Ho servito il Signore con tutta umiltà, tra le lacrime e le prove che mi hanno procurato le insidie dei giudei. Non mi sono mai tirato indietro da ciò che poteva essere utile, al fine di predicare a voi e di istruirvi, in pubblico e nelle case, testimoniando a giudei e greci la conversione a Dio e la fede nel Signore nostro Gesù Cristo». Allora, notiamo subito alcuni aspetti. Paolo inizia il discorso ponendo davanti il proprio esempio, la propria testimonianza. È questa una caratteristica che ritroviamo in alcune lettere di Paolo. Pensate ad esempio alla lettera che Paolo scrive ai credenti della Galazia, che deve convincere su alcuni temi molto forti, sulla centralità, ad esempio, del Vangelo rispetto alla legge ebraica e soprattutto rispetto all'insistenza di alcuni che vorrebbero far circoncidere i fratelli. Ecco, in quella lettera Paolo inizia allo stesso modo, cioè partendo dalla sua esperienza personale. E questo ci fa capire una cosa: il vero annuncio è un annuncio che prima di uscire dalle labbra esce dalla vita, è un annuncio di un Vangelo che ha plasmato l'esistenza di chi lo porta. Quindi Paolo sente che la sua vita è un tutt'uno con il Vangelo che annuncia e che questo Vangelo, che per lui è una persona, è il Cristo, lo abita fino in fondo. Ecco perché parte mostrando, partendo, sottolineando la sua testimonianza. Non è per mettere in evidenza il suo io, non è una questione di egocentrismo, assolutamente no, ma è mostrare come la persona di Cristo abbia plasmato negli anni tutta la sua esistenza di apostolo. E quando porta la sua testimonianza, cosa sottolinea di sé? Fa notare, ricorda ai credenti di Efeso che lui ha sempre servito con umiltà. Quindi ricorda loro la posizione giusta, I responsabili di una comunità non sono le persone che stanno sopra la comunità, come se da una cattedra devono lanciare degli ordini a chi sta sotto, ma non sono nemmeno coloro che stanno semplicemente accanto alla comunità camminando con loro, ma sono servi, stanno sotto. In un certo senso sono coloro che vivono il servizio con umiltà, che vivono la kenosi, quella spogliazione che Gesù ha vissuto su di sé. Papa Francesco, in una delle sue prime riflessioni sul ministero sacerdotale, ricordava noi sacerdoti, no, di essere dei pastori che sanno stare davanti, in mezzo e dietro il gregge, in modo da saper dare degli orientamenti sicuri, in modo da saper condividere il percorso, il sentire, le fatiche del gregge, ma anche in modo, stando dietro, di saper accompagnare coloro che fanno più fatica. Ecco, anche Paolo parte evidenziando questo aspetto. I responsabili della comunità sono coloro che, come lui, servono con umiltà. Secondo aspetto che emerge dalla testimonianza di Paolo, di questi versetti. Paolo si mostra come colui che ha perseverato tra le lacrime e le prove. E qui c'è un aspetto anche interessante, cioè prima di salutare per l'ultima volta, Paolo è convinto che è l'ultima volta che vede i responsabili di questa comunità, gli affida loro, ricorda loro che gli ingredienti che fanno parte del loro ministero sono anche le lacrime e le prove. Che le lacrime e le prove non vanno viste come qualcosa che sono un ostacolo al cammino di colui che guida una comunità, ma sono parte consistente del suo ministero, tra le lacrime e le prove. Ora, qui Paolo dà una lezione grossa, perché in genere, ecco, uno non pensa che faccia parte del suo ruolo formativo le lacrime e le prove. E invece no, le lacrime e le prove sono quello che permette a una comunità, a una chiesa, di fare il suo percorso formativo. Del resto, penso che molti di voi che siete all'ascolto, penso soprattutto ai genitori che hanno una responsabilità fortemente educativa nei confronti dei figli, sanno quanto le giornate, gli anni, i passaggi più significativi della vita dei figli siano impastati di lacrime e di prove. E questi sono necessari per far fare quel salto di qualità, per far operare quelle scelte, a volte delicate, a volte difficili, che poi decidono una vita intera. C'è poi il terzo aspetto che sottolinea Paolo nella sua testimonianza in questi tre versetti. Dice: non mi sono mai tirato indietro da ciò che è utile. Ecco, la capacità non solo di perseverare tra le lacrime e le prove, ma di sapere anche quali sono le cose per cui vale la pena puntare i piedi e quali invece sono quelle per cui non vale la pena. Quindi non ci si tira indietro, ma da ciò che è utile. Da ciò che è inutile conviene tirarsi indietro il prima possibile. Quindi ovvio che questo richiede da parte di chi guida la comunità un grande discernimento. Quindi vedete, la testimonianza di Paolo, che si basa sul servizio, sulla perseveranza e sul pieno coinvolgimento all'interno della comunità. Come si traduce tutto questo? Si traduce in un annuncio, ma prima di essere annuncio è un Vangelo che ha plasmato la vita, è la relazione con un Cristo che ha inciso nella persona di Paolo in modo determinante. E anche qui è interessante come in questi tre versetti l'annuncio di Paolo sia davvero un annuncio presentato nei suoi aspetti più universali. Paolo dice di aver predicato e istruito, quindi non si è limitato solo a predicare, non si è limitato a portare il kerygma, a portare gli elementi principali della fede, ma li ha approfonditi. Quanto questo è importante per una comunità, non basta ripetere i numeri del catechismo della Chiesa Cattolica, troppo poco, troppo facile. Occorre arrivare anche alla formazione, all'istruzione, alla capacità di far capire come quanto è stato codificato da una tradizione ha il suo linguaggio vivo per noi oggi, altrimenti sono concetti che passano sopra le teste e non entrano nel cuore, non entrano nella vita, non ci dispongono in quegli atteggiamenti necessari per un autentico cammino di fede. Paolo poi continua dicendo: non solo ho predicato e istruito, ma l'ho fatto in pubblico e nelle case. C'è un ministero che tocca le persone e c'è un ministero che tocca le comunità. Un bravo pastore, una buona guida, sa formare la comunità, ma sa formare anche i singoli. Sa parlare in pubblico, ma sa parlare anche nelle case. Sa raccogliere i fedeli nella chiesa, ma sa abitare anche le strade, i luoghi in cui i singoli fedeli abitano, quindi l'attenzione al tutto e alla parte. Paolo continua ancora: ho parlato in pubblico e nelle case ai giudei e ai greci, e qui uno dice a chi è più vicino alla sua sensibilità e a chi è più lontano, la capacità di avere sempre uno sguardo oltre i confini che io abito e guardare un pochino l'orizzonte, portando un annuncio che è di conversione e di fede, che deve plasmare la persona. Quindi vedete, tre versetti che aprono il discorso agli anziani di Efeso, che puntano sulla testimonianza di Paolo e sulla sua metodologia. Una metodologia che Paolo sintetizza e che già dalla sintesi che lui fa è una sintesi che mette in evidenza la sua capacità di parlare a tutti e ai singoli, di predicare e di istruire, di tenere presenti i giudei e i greci, di sottolineare i principi di fede, ma anche gli elementi che cambiano l'esistenza, gli elementi di conversione. Dopo aver presentato questo esempio, l'esempio di sé, Paolo dice quello che lo attende. E questo non va a detrimento dell'esempio che lui ha appena citato, ma lo conferma, nel senso che nel momento della prova lui sta consegnando quelli che ritiene essere gli elementi più importanti per il suo cammino. Allora, leggiamo ancora gli altri versetti, cioè i versetti 22 e 25 che contengono la seconda parte del discorso. Dice Paolo: ed ecco dunque, costretto dallo Spirito, io vado a Gerusalemme, senza sapere ciò che là mi accadrà. So soltanto che lo Spirito Santo, di città in città, mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Non ritengo in alcun modo preziosa la mia vita, purché conduca a termine la mia corsa e il servizio che mi fu affidato dal Signore Gesù, di dare testimonianza al Vangelo della grazia di Dio. E ora ecco, io so che non vedrete più il mio volto, voi tutti tra i quali sono passato annunciando il Regno. Allora, vedete, Paolo si affaccia, dopo aver portato la sua testimonianza, si affaccia sul futuro e non vede il futuro particolarmente roseo, non vede il futuro particolarmente roseo. Tra l'altro ci sono degli studi, faccio riferimento soprattutto a uno studio di Giancarlo Biguzzi, biblista, che evidenziano come probabilmente l'obiettivo di Paolo quando era partito per i suoi viaggi missionari con Sila era quello di riuscire in qualche modo a circumnavigare, portando il Vangelo, tutti i confini dell'impero. Solo che in questo momento in cui saluta gli anziani di Efeso, la circonferenza dei suoi viaggi, che hanno sempre quasi un moto circolare, è ancora una circonferenza molto stretta. Lui non sa ancora ciò a cui lo prepara lo Spirito Santo. Lui pensava di poter andare in Spagna e invece in qualche modo è costretto a ripiegare su Gerusalemme, portando i frutti del suo ministero, e in questo ritorno a Gerusalemme sente che una nube oscura si sta stendendo davanti a lui. Tuttavia, al di là della percezione che Paolo ha, Interessante è il modo in cui lui legge questa pagina difficile del suo ministero, questa pagina difficile della sua vita. Lui la descrive come se quello che avviene, avviene sotto la costrizione dello Spirito. C'è una via tracciata dallo Spirito Santo, proprio come Gesù prima del mistero pasquale, di passione e morte, propone i tre annunci della passione, morte e risurrezione, sentendoli come iscritti nella volontà di Dio. Lo stesso vale per Paolo, tanto vero che alcuni vedono in questi versetti l'annuncio della passione di Paolo. Come c'è stata la passione di Gesù, Luca dà degli annunci della passione di Paolo. Ugualmente Paolo insiste nel dire: lo spirito di città in città mi attesta che mi attendono catene e tribolazioni. Quindi c'è da parte di Paolo anche la capacità di leggere i fatti, di discernere i fatti. E il cammino è tenuto vivo da quel servizio che gli fu affidato dal Signore. Quindi vedete, Paolo vive la quotidianità, ma vive questa quotidianità che sembra essere orizzontale, non solo orizzontale ma anche oscura, grazie ad una lettura verticale, grazie all'irruzione del cielo sulla terra, in questo contesto che è un contesto adombrato di ombre. Lui sa vedere come Giacobbe, come Nicodemo, come Giacobbe e come Natanaele, la terra in cui sta come il luogo in cui gli angeli salgono e scendono, come il luogo in cui irrompe l'azione di Dio, irrompe lo Spirito di Dio. E lo Spirito di Dio cosa gli sta chiedendo? Gli sta chiedendo di entrare fiducioso nella notte, di consegnarsi alla notte, una notte che assume nomi diversi. Qui la notte assume il nome delle catene, della tribolazione, del condurre a termine la sua corsa, del servizio, della testimonianza vitale, del non vedere più coloro che gli sono cari, coloro a cui ora affida la comunità. E in altre parole, l'esperienza, non solo l'annuncio, del mistero pasquale. Qui Paolo sembra essere letto da Luca in controluce proprio con il Cristo che si accosta al mistero pasquale. Ecco, questo Gesù che Giovanni ci presenta come pienamente cosciente di quello che gli sta accadendo e che si consegna con fiducia nelle mani del Padre. Ricordate l'inizio del racconto della passione nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 13, versetto 1, dove Gesù dice, dove l'Evangelista narrando dice: Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, sapendo che era giunta la sua ora, c'è una piena consapevolezza. E ugualmente al capitolo 19, versetto 28, quando Gesù è in croce, l'Evangelista nota che Gesù, sapendo che ormai tutto era compiuto, disse: ho sete. Quindi c'è una piena consapevolezza, e in questa piena consapevolezza c'è la consegna fiduciosa nelle mani di Dio entrando nella notte oscura. E lo stesso vive Paolo. Dopo aver presentato agli anziani di Efeso quello che è la sua testimonianza di vita, questa testimonianza si conclude mostrando come lui legga i fatti della sua esistenza, quindi alla luce dello Spirito Santo, alla luce della volontà di Dio, e come lui si consegni fiducioso alle mani di Dio nell'entrare in questa notte. Ecco, prima di passare alla seconda parte del discorso di Paolo, lasciamo un breve stacco musicale, dopodiché riprendiamo il nostro discorso vedendo come Paolo, continuando a rivolgersi agli anziani di Efeso, cambia a un certo punto registro e si rivolge direttamente a loro. Quindi vi invito durante questa pausa musicale a rileggere questi versetti dal 18 al 25, in modo che poi continuiamo con i versetti dal 26 al 35. Ecco quindi Paolo, rivolgendosi agli anziani di Efeso, dopo aver presentato la propria testimonianza e il destino che lo attende, continua il discorso rivolgendosi direttamente a loro, dando a loro delle consegne precise. È ciò che contiene la terza parte di questo discorso, nei versetti dal 26 al 31, dove Paolo dice così: «Io attesto solennemente oggi davanti a voi che io sono innocente del sangue di tutti, perché non mi sono sottratto al dovere di annunciarvi tutta la volontà di Dio. Vegliate su voi stessi e su tutto il gregge, in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti come custodi per essere pastori della Chiesa di Dio che si è acquistata con il sangue del proprio Figlio. Io so che dopo la mia partenza verranno fra voi lupi rapaci che non risparmieranno il gregge. Perfino in mezzo a voi sorgeranno alcuni a parlare di cose perverse per attirare i discepoli dietro di sé. Per questo vigilate, ricordando che per 3 anni, notte e giorno, io non ho cessato, tra le lacrime, di ammonire ciascuno di voi». Ecco, questa è la terza parte del discorso, uno dei passaggi proprio più intensi del discorso ai responsabili della comunità, ed è interessante come nel dare le consegne alla comunità e ai suoi responsabili, Paolo mostra di concepire la comunità in un determinato modo, utilizza 3 immagini precise. La prima immagine è quella del gregge e del pastore, quindi i responsabili si devono comportare come il pastore nei confronti del gregge. E qui nella nostra mente torna tutta la catechesi neotestamentaria sul pastore, soprattutto al capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, quando questa immagine è ben articolata, ben presentata. La seconda immagine è quella della Chiesa intesa come comunità di convocati, e insieme all'immagine della comunità c'è quella del custode. Il custode che è colui che vigila su ciò che entra e ciò che esce dalla comunità dei convocati. E poi la terza immagine che viene utilizzata è quella dei discepoli e del maestro, sostanzialmente della scuola, quindi la Chiesa come luogo di formazione. E notiamo che in questi 3 ambiti potremmo in qualche modo vedere quella triade in cui Gesù si definisce. Gesù si definisce via, verità e vita. I discepoli e il maestro rimandano più alla verità. La Chiesa dei convocati con il custode richiama di più il discorso della vita. Il gregge e il pastore richiamano il discorso della via. Quindi c'è in queste 3 immagini, come dire, una complementarità che aiuta a capire quello che la Chiesa è e all'interno della Chiesa qual è il ruolo dei responsabili. Interessante, i verbi utilizzati nei confronti dei responsabili hanno tutti a che fare con la vigilanza. I responsabili sono percepiti come delle sentinelle, devono prima di tutto vigilare su se stessi, perché chi sta in piedi guardi bene di non cadere, cioè la prima formazione è da fare su di sé, solo chi ha formato se stesso può guidare gli altri. E in questo siamo in perfetta sintonia con la logica di Paolo. Paolo non inizia a dare degli imperativi alle guide della comunità, prima mostra come quel Vangelo che lui ha annunciato ha plasmato lui stesso, quindi evidenzia la testimonianza, vigilanza su se stessi. Seconda, vegliate sul gregge che vi è stato affidato, quindi capacità di custodire il gregge, di vigilare su di lui tra le lacrime notte e giorno. E infine, terza dimensione, è vigilare sugli insegnamenti, perché c'è il rischio che anche all'interno della comunità di Efeso si infiltrino dottrine devianti. Ecco, di fronte a queste immagini, quali sono le minacce? Le minacce anche qua vengono descritte con delle immagini. La prima minaccia che è legata all'immagine del gregge è quella dei lupi, e è interessante, nella tradizione antico-testamentaria i lupi non sono figure esterne alla comunità, i lupi spesso sono le guide stesse della comunità che vivono il servizio in modo del tutto distorto, per pascere loro stessi e non il gregge di Dio, quindi è chiaro che il pastore deve vigilare su se stesso, oltre che sul gregge, stando attento ai lupi. Seconda minaccia è quella delle infiltrazioni di nemici, cioè di persone che vogliono distogliere i convocati e chiamarli dietro di sé. La terza immagine è quella delle dottrine perverse. Tra l'altro proprio Efeso rimarrà vittima già dalla fine del primo secolo fino a tutto il secondo secolo di questa problematica. Sarà uno dei terreni più fecondi delle distorsioni dell'insegnamento di Paolo e dell'insegnamento di Gesù, producendo tutta una serie di eresie. Quindi quello che Paolo dice agli anziani di Efeso è visto, come dire, da lontano. Alcuni dicono sì, però Luca scrive alcuni anni, molti anni dopo che Paolo è morto, quindi probabilmente Luca respira già questa dimensione, e può darsi che sia così, però niente ci impedisce di pensare che nell'orizzonte già Paolo percepiva alcuni rischi, anche perché non a caso aveva avuto delle difficoltà di un certo peso in città, in comunità come Corinto e Efeso, proprio perché Paolo si opponeva ad alcune derive che c'erano all'interno della comunità. E nel discorso, quali sono le basi solide su cui il pastore, il custode, il maestro, che sono le tre immagini con cui lui descrive i responsabili della comunità, quali sono le basi su cui questi responsabili possono appoggiarsi? Le basi, anche qui in questi pochi versetti, sono ben scandite. Le basi sono lo Spirito Santo che li ha costituiti, il sangue di Gesù che ha acquistato la sua chiamata e la volontà di Dio che è emersa attraverso i fatti. Notate, lo Spirito Santo, il sangue di Gesù, la volontà di Dio. La Trinità è il punto di riferimento dei responsabili della comunità. Il Padre che ha sciolto, espresso, chiarito tutta la sua volontà nella storia della salvezza, lo Spirito Santo che ha chiamato e costituito alcune persone rendendole corresponsabili della comunità insieme a Paolo, e Gesù nel suo mistero pasquale, quando sulla croce ha dato compimento a tutto il suo ministero, donando alla comunità sangue ed acqua, acquistandola, cioè unendola definitivamente a sé. Qui l'acquisto, più che essere percepito nel senso del riscatto di uno schiavo, è più il senso proprio dell'unione, no? Lo sposo che stringe il patto con la sposa. Ecco, nel mondo medio orientale e nel mondo orientale ancora oggi, in diverse culture, il matrimonio è visto come un contratto in cui in qualche modo la sposa viene acquistata. Ora è chiaro che nella accezione degli Atti degli Apostoli questo termine non ha un valore basso, un significato basso, ma il significato più elevato. E notate come anche in questa terza parte del discorso, dove Paolo esorta i responsabili della comunità, l'inizio e la fine c'è ancora la testimonianza sua. Paolo, come testimone e servo della Chiesa, che ha annunciato, ha ammonito, ha trasmesso tutta la volontà di Dio giorno e notte tra le lacrime, proprio per trasmettere non dei concetti, ma un'esperienza. Ed è questa che va ad incidere su questi responsabili della comunità. Paolo non trasmette mai dei concetti, trasmette sempre delle esperienze. Vi dicevo, no, questa trasmissione la sto facendo, sto trasmettendo da Ariccia, dove la nostra congregazione a livello mondiale sta proprio riflettendo su come comunicare la parola di Dio in un mondo, in una cultura della comunicazione totalmente cambiata rispetto a 10, 20, 30 anni fa, ma anche solo 10 anni fa in un mondo totalmente cambiato. Ecco, ci sono dei principi che restano alla base di tutto e questi principi sono proprio quelli della testimonianza, che Paolo proprio comunica in modo così limpido, così chiaro, ricordando i responsabili cosa devono essere, pastori, custodi, maestri, e su chi si devono appoggiare, sullo spirito che li plasma, sul Signore che li ha redenti, sulla volontà di Dio che nella parola si manifesta in modo stupendo, perché attraversa intere generazioni di credenti. E adesso il discorso giunge alla sua parte più forte, alla sua conclusione, che è particolarmente intensa, perché nella finale del discorso racchiusa nei versetti 32-35, come avremo modo di vedere, c'è una frase che io amo definire come la frase decisiva del ministero, la frase decisiva del ministero, e che dovremmo proprio stamparci, soprattutto chi è responsabile di una comunità, ma anche i genitori credenti nei confronti dei figli se la dovrebbero proprio stampare. Allora, leggiamo il testo su come, cosa dice Paolo, come continua il suo discorso. E ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che da lui sono santificati. Non ho desiderato né argento né oro nel vestito di nessuno. Voi sapete che alle necessità mie e di quelli che erano con me hanno provveduto queste mie mani. In tutte le maniere vi ho mostrato che i deboli si devono soccorrere, lavorando così, ricordando le parole del Signore Gesù che disse: si è più beati nel dare che nel ricevere. Allora, qual è la frase decisiva? La frase decisiva è quella del versetto 32. Paolo, prima di allontanarsi, dice: ora vi affido a Dio e alla parola della sua grazia. Non affida la parola ai responsabili, ma affida i responsabili alla parola di Dio. In questa frase, cari ascoltatori, c'è tutto, perché se noi avessimo un rapporto con la parola di Dio, così come viene evidenziato da questo semplice versetto di Paolo, avremmo capito il 99% del cammino cristiano. La parola di Dio è un soggetto, la parola di Dio è una persona a cui noi siamo affidati. E proprio nella relazione con questa persona noi capiamo qual è il cammino che dobbiamo fare. Grazie al rapporto con Cristo che si rende vivo nella parola e che dalla parola si fa poi carne nell'Eucaristia, il Cristo può essere vivo dentro di noi. Io amo utilizzare l'espressione, no? Di lasciarci guardare dai due stupendi occhi di Dio, che sono quello della parola e quello dell'Eucaristia. La parola e l'Eucaristia sono i due occhi con cui Dio ci guarda, e se noi fissiamo lo sguardo su questo volto di Dio, la sua luminosità ci abiterà, la sua persona ci abiterà, e man mano prende forma in noi la sua persona, più il nostro discepolato sarà autentico, perché non sarà il frutto di uno sforzo, ma il frutto di un'accoglienza. E sentite cosa dice Paolo, no? Nel momento in cui affida i responsabili della comunità di Efeso alla parola: io vi affido a Dio e alla parola della sua grazia, che ha la potenza di edificare e di concedere l'eredità fra tutti quelli che sono santificati. La parola di Dio ha tre dynamis dentro di sé: ha la potenza, ha la capacità di edificare, ha la capacità di farci sentire nella dignità dei figli, perché chi sono gli eredi? Gli eredi non sono mica degli esterni. Gli eredi, chi è che riceve l'eredità del padre? Sono i figli. Quindi la parola al potere di dare l'eredità a coloro che sono santificati, cioè al potere di rendere figli coloro che il Figlio ha già innestato in sé grazie al mistero pasquale. Quindi una parola percepita come presenza viva ed efficace di Dio. Noi affidati alla parola, non il contrario. Dicevo prima, questo è il ministero dei responsabili della comunità, affidare la comunità a Dio e alla parola della grazia. È il ministero di tutti i formatori, dei genitori compresi, affidare i figli a Dio e alla parola. E questo ricorda anche a quei pastori, a quei custodi, a quei maestri, che loro non sono i possessori della parola. Certo, la spiegano, la possono illustrare, possono fare dei percorsi formativi, possono guidare delle lezioni oranti, le iniziative possono essere le più diverse, ma bisogna sempre stare attenti alla posizione giusta. La posizione non è quella di possedere la parola, ma di lasciarsi possedere dalla parola. La parola deve diventare il nostro ambiente di vita, il nostro ambiente vitale. E poi il testo continua richiamando ancora la testimonianza di Paolo. Paolo dice, e guardate, questo è possibile se rimanete poveri come ero povero io e se soprattutto mantenete la disponibilità a donare come avevo la disponibilità a donare io, perché c'è più beatitudine nel dare che nel ricevere. Come mai la povertà e il dono sono due qualità e non ne vengono menzionate altre in questo contesto per permettere alla parola di essere protagonista, per affidarsi alla parola di Dio? E perché la povertà e il dono implicano l'apertura del cuore. E solo chi è aperto riesce a, come dire, lasciarsi guidare. Se uno è chiuso, se uno vuole fare lui, se uno vuole essere protagonista, sarà un po' difficile che la parola riesca ad essere colei che guida, colei che fa da primo pastore, primo custode, primo maestro delle comunità. E il testo termina con un gesto anche qui molto delicato, molto bello, nei versetti da 36 a 38. Dice il testo, dopo aver detto questo, Paolo si inginocchiò con tutti loro e pregò. Tutti scoppiarono in pianto e gettandosi al collo di Paolo lo baciavano, addolorati soprattutto perché aveva detto che non avrebbero più rivisto il suo volto, e lo accompagnavano fino alla nave. Allora, di fronte a questo discorso di Paolo, tutti, Paolo compreso, si sentono nella necessità di consegnarsi nelle mani di Dio. Le lacrime ci sono, il dolore c'è, ma tutti accompagnano Paolo alla nave. Vale a dire, da un lato c'è il dolore del distacco di Paolo, dall'altro però c'è la fiducia che Paolo è atteso da Dio, c'è una volontà di Dio che è su di lui, una volontà che ha anche a che fare con le catene, con le tribolazioni, quindi tutti, nonostante la fatica di quel momento, accompagnano Paolo alla nave per affidarlo al suo destino. Tutti, nonostante la fatica di accettare umanamente quello che attende Paolo, tutti contribuiscono a far sì che Paolo non si tiri indietro di fronte alla tribolazione. Possiamo dire che tutti aiutano Paolo ad entrare in questo periodo di notte. Ecco, sapremo poi dalla storia che è vero che lo attendeva un periodo oscuro, un periodo molto oscuro, ma quel periodo molto oscuro non era ancora la morte. Paolo è atteso per vivere la lunga pagina della prigionia, a Gerusalemme prima, a Cesarea dopo, a Roma dopo ancora, probabilmente poi viene rilasciato e tornerà a Roma per essere incarcerato un'altra volta, prima del martirio, quindi ha ancora una buona fetta del suo ministero da vivere, però questa buona fetta del ministero che ha da vivere sarà segnata dalle catene. E paradossalmente sarà una dei momenti, una delle pagine più feconde della sua vita. Ma tutto inizia da qui, tutto inizia da questa disponibilità ad entrare nella notte, a fare un passo indietro verso quelle comunità che gli erano tanto care e ad affidarle con le giuste raccomandazioni ai futuri responsabili di queste comunità. Ecco, cari ascoltatori, la conversazione che questa sera mi premeva condividere insieme a voi. Penso che ciascuno da queste parole di Paolo può attingere qualcosa di significativo per il proprio percorso formativo, per il proprio percorso educativo, sia come educatore, come guida, come pastore di quella porzione di chiesa che gli è affidata. Si chiami comunità cristiana, si chiami comunità religiosa, si chiami famiglia, si chiami ambiente scolastico, ognuno ha un ambito in cui è responsabile di qualcosa. Ecco, Paolo qui ci dà le indicazioni per vivere bene tutto questo. Lasciamo ora un altro spazio musicale durante il quale è lasciata a voi la possibilità di pensare, formulare degli interrogativi o delle riflessioni pertinenti con questa nostra conversazione da condividere poi insieme. Quindi lascio la parola alla regia perché vi dia le indicazioni giuste e poi ci risentiamo per le vostre domande. Pronto, buonasera, con chi parlo? Sì, buonasera Don Giacomo, buonasera. Volevo chiederle, ecco, spero che sia pertinente la mia domanda, visto che mi sono appena collegata alla radio. In pratica vorrei chiederle, allora, so che sarebbe cosa buona e giusta ogni giorno leggere la parola di Dio, meditarla e magari anche attraverso uno scritto, no, esternare le proprie sensazioni, ma io sono sempre un po' intimorita da questa cosa perché temo di dare un'interpretazione sbagliata, no? E quindi magari di convincermi di cose errate, ecco, vorrei chiederle un parere in questo senso. Grazie di cuore per questo suo intervento. Allora, prima di tutto, il lasciarsi guidare dalla parola di Dio è sempre un passo buono, quindi se soprattutto se ci lasciamo guidare dalla porzione di parola di Dio che la liturgia ogni giorno ci offre, no? Oggi più che mai sono a disposizione messaliti di ogni tipo dove c'è la parola del giorno, quel brano di Vangelo che tutta la Chiesa in quel giorno medita. E allora la prima cosa secondo me da fare è leggere il testo biblico, non le meditazioni che ci sono prima o dopo, niente, no, il testo biblico e pregare in silenzio, invocare lo Spirito Santo, pregare quel testo ponendosi una domanda: quale tratto dell'amore di Dio mi rivela questo testo? Quale tratto dell'amore di Dio mi rivela questo testo? Cioè fare in modo, leggendo quella porzione di parola di Dio, di fissare lo sguardo sugli occhi di Dio. Mai chiedersi di fronte a un testo cosa dice a me questo testo, cosa devo fare, perché in questo caso noi spostiamo lo sguardo su di noi, invece no, dobbiamo contemplare e vedrà signora e vedrete ascoltatori che lo Spirito puntualmente ci evidenzia ora una cosa, ora un'altra, ora magari un'intuizione, magari affiora qualcosa che non avevamo mai pensato. O magari può capitare anche che in quel giorno, un giorno o l'altro, non emerge niente, però poi durante il giorno, ripensando a quella parola, arriva la luce che illumina il brano che abbiamo letto. Ecco, dopo questo primo momento, ci può essere un secondo momento, ma deve essere successivo, in cui ci confrontiamo con la meditazione che questi sussidi propongono, no? Oppure ci confrontiamo con qualche altro credente che magari sappiamo fa la stessa cosa. Se questo non è possibile, c'è la meditazione che c'è su questi sussidi, in modo che il nostro rapporto con il Signore diventa anche un fatto ecclesiale, diventa un fatto ecclesiale. Se poi abbiamo il desiderio, la fortuna, l'appello a partecipare anche alla celebrazione eucaristica, dove la parola ci viene proprio offerta in un contesto liturgico di chiesa, tanto meglio, perché lì è proprio la presenza viva di Dio che ci guarda con quei due occhi, parola ed eucaristia. Quindi, signora, io la incoraggio tanto ad andare in questa direzione, a non avere alcuna paura. L'importante è fare la domanda giusta e, come dire, non chiudere tutto nel rapporto io-Dio, ma cercare poi di estendere questa sua lettura attraverso o la lettura della meditazione o il confronto con qualcun altro ad un fatto ecclesiale. Grazie davvero per la sua domanda. Pronto? Buonasera. Pronto? Con chi parlo? Con Caterina, siamo dalla provincia di Torino. Senta, io non ho un'opinione particolarmente elevata di me stessa, però ho grosse responsabilità educative e ho una formazione che non mi fa appartenere, diciamo così, al novero dei poveri in spirito. Quindi, benché io mi disponga sempre nel più umile, più attento e silenzioso ascolto, è quasi impossibile che io riesca a recepire la parola senza cominciare a sovrainterpretarla, eccetera. Forse è per questo che non riesco a trovare nella preghiera, nella parola, la luce che mi aspetto. Non riesco a impedirmi, è quasi una come si può dire, un pilota automatico, ecco, perché io ho fatto studi filosofici, sono laureata in ermeneutica e non riesco a impedirmi di fare questa cosa. Un consiglio, per cortesia. Grazie Caterina per questa domanda. Allora, anche in questo caso, no, è vero, a volte magari uno ha alle sue spalle un bagaglio molto esteso, no, di studi, e si nota che questi studi possono a volte ostacolare. E allora come fare? Ma secondo me è proprio vanno curati bene i primi istanti, quando noi ci poniamo davanti alla parola di Dio. Quando ci si pone davanti alla parola di Dio, bisogna proprio chiedere al Signore il dono della semplicità. Questo non significa buttar via quello che noi abbiamo acquisito, no, durante l'esperienza, quello che abbiamo studiato, anzi, a volte quegli strumenti possono essere quelli che ci permettono di entrare, accogliere, però l'importante è che lo Spirito ci aiuti a cogliere che non siamo davanti a un testo da analizzare, ma siamo davanti a un volto che ci guarda. Ecco perché la prima domanda è: quale tratto dell'amore di Dio affiora da questo testo? Cioè, questo Signore che mi guarda, quale parola d'amore mi sta comunicando? Quale emozione mi vuole trasmettere? Quale pensiero vuole consegnarmi per plasmare la mia testa? E il punto di verifica è molto, anche qua è in un certo senso molto, molto semplice. Se quel momento di preghiera tocca solo la nostra testa, forse lì è solo un momento di scavo dal punto di vista di studio. Se dalla testa scende un pochino al cuore, alla vita, suscitando dentro di me la lode, la gratitudine, la compunzione, un senso di attenzione verso l'altro, tutto ciò che apre è segno di un rapporto autentico con la parola, tutto ciò che chiude è segno invece che è più il mio io. Quindi Caterina, il primo dono da chiedere è proprio quello della semplicità, però tenendo presente che anche gli studi che tu hai fatto sono preziosi davanti a Dio. In questi giorni tenevo una riflessione a una comunità qua delle nostre e facevo un pochino la differenza tra il comportamento di Dio nei nostri confronti e il comportamento dello spirito nemico. Sapete, nei giorni scorsi c'era il libro di Giobbe, no? E allora a un certo punto rimanevo stupito dal notare come all'inizio del libro di Giobbe Dio e lo spirito nemico si comportano in modo molto diversi. Dio vanta Giobbe, lo spirito nemico lo accusa. Ecco, quando noi siamo davanti alla parola di Dio, siamo davanti a un Dio che ci vanta. Quindi noi non dobbiamo avere una visione bassa di noi stessi o anche del percorso che noi abbiamo fatto, non lo dobbiamo mai disprezzare. Dio ci vanta perché sono tutti i doni che Lui ci ha dato. E Lui dice agli angeli, dice guardate Caterina quanti doni ha avuto e guardate come possono essere preziosi questi doni. Poi arriva lo spirito nemico e invece accusa. Ecco, il rapporto con la parola di Dio è un rapporto che non butta via niente, valorizza tutto e ci mette di fronte il lato più bello di noi stessi perché noi lo possiamo potenziare. Possa essere così il nostro rapporto con la parola. Grazie Caterina. Pronto, buonasera. Pronto, buonasera, sono Maria Stella da Firenze. Mi dica Maria Stella. Allora dunque, io ho ascoltato tutto il suo discorso, è veramente stato fatto una catechesi profonda, spontanea, autentica, perché quando si apre il Vangelo e si legge una lettura, si sente che in quella lettura c'è le parole di Gesù. E se ci abbiamo Gesù nel cuore, domande non si fanno, ma si sente una logica così chiara che la lettura parla, e Paolo in questo caso lei ne ha parlato così chiaro, così bello, che stasera il Signore ci ha fatto il regalo a poter ascoltare una delucidazione che non ho mai sentito così vera, così alla portata di mano. Insomma, dietro a questa voce c'era Gesù dietro di lei, vivo e vestito di bianco. Cara Maria Stella, io la ringrazio per queste sue parole. Io spero che dietro di me ci sia stato il Signore, nel senso che questo è ciò che desidero di più, soprattutto quando apro la parola di Dio. E se ci fate caso, io inizio sempre la trasmissione dicendo che il Signore mi aiuti a non rovinare la parola, perché noi abbiamo un pochino questo rischio, siamo affidati alla parola, ma a volte in questo desiderio di condividerla, di spezzarla, di aiutare a renderla accessibile, diventiamo un pochino delle persone che l'afferrano. Allora afferrandola si possono fare anche un pochino di guai. Mi permetta solo di fare una piccola considerazione in merito alle domande, no? Perché non sempre la parola si schiude, nel senso che noi possiamo metterci a pregare la parola di Dio con le migliori intenzioni di questo mondo, magari anche dopo una bella confessione ci mettiamo lì, ci mettiamo a pregare e niente, non emerge niente, vogliamo capire qual è il tratto d'amore che quel brano ci comunica e niente, come se il brano fosse silenzioso, cioè è un po' come se a volte il Signore volesse sentire che veramente noi desideriamo incontrare il suo volto e allora vuole che bussiamo alla sua porta. Oppure in altri casi è la parola che entra nel nostro mondo, però come un ospite prima ha bisogno di essere accolta bene, di sentirsi a suo agio e solo quando è accolta bene, si sente a suo agio, ha ricevuto un bicchiere d'acqua, si è seduta e vede che noi non abbiamo fretta, insomma che siamo lì per lui, allora comincia a raccontarsi, è la parola che si schiude, perché si trova nel suo ambiente, in un ambiente veramente accogliente, quindi come dire, non è così automatico che il mettersi di fronte alla parola di Dio porti questa parola a schiudersi, come vi dicevo dietro questa parola c'è un volto, c'è una persona. A volte magari questa persona vuole farci un dono così grande, però vuole che aumentino il desiderio. Altre volte questa persona ha bisogno di sentirsi accolta un po' di più, senza alcuna fretta. Altre volte questa persona ha bisogno di sentire le nostre domande, perché è a partire da queste nostre domande che possono fiorare delle risposte. Grazie di cuore Maria Stella per la tua testimonianza. Pronto? Con chi parlo? Buonasera, sono Carmelina, chiamo da Catania. Senti, le volevo dire, volevo chiedere una domanda. Cioè, l'Apostolo Paolo che si inviava così tranquillamente, è perché aveva tanta fede, e che ha conoscenza, io dico, no? Della parola di Dio. Pronto? Sì, Carmelina, rispondo alla sua domanda. Allora, anche qua l'Apostolo Paolo, no? L'Apostolo Paolo non è che si improvvisa apostolo, non è che per Paolo sia facile, come in questa pagina, consegnarsi alla notte. Dietro questo passo di Paolo c'è un percorso di vita. Se noi pensiamo come Paolo entra in scena negli Atti degli Apostoli, dove tutto è dominato dal suo io, è il suo io che va a Gerusalemme dai sacerdoti, è il suo io che si mette in cammino verso Damasco, lui vuole portare i prigionieri da Damasco a Gerusalemme, quelli che credono nel nome di Gesù. Cioè c'è un io totalmente deciso che guida tutta la sua vita. E qui a Efeso, con gli anziani della comunità, cominciamo a notare come Paolo sia spoglio, sia stato capace di far diventare protagonista della sua vita il Signore. Quindi questo è sicuramente uno degli elementi che dà la forza a Paolo. Secondo elemento che dà la forza a Paolo, Paolo non decide mai niente da solo. Questo ha caratterizzato una prima fase della sua esperienza cristiana, ma da un certo punto in poi, e questo punto io lo identifico nel dopo Antiochia, dopo l'incidente di Antiochia con Pietro, Paolo non decide più niente da solo. Cammina all'insegna della comunità, ha sempre i collaboratori con sé e sente questi collaboratori, sente questi discepoli, veramente degli apostoli insieme a lui, coloro di cui si serve lo Spirito Santo per tracciare le linee del suo apostolato. E poi terza cosa, la capacità di leggere i fatti con una luce altra. C'è una vita, come dire, noi tutti viviamo una vita orizzontale, la chiamo così, è la vita dei fatti quotidiani, degli incontri, degli incidenti di ogni giorno, degli incidenti di percorso, delle nostre gioie, delle nostre cadute, delle nostre arrabbiature, dei nostri slanci. Questa è la vita orizzontale, la viviamo tutti. La grande capacità di Paolo era saper leggere dietro questa vita orizzontale il cielo aperto, cioè saper vedere gli angeli di Dio che salgono e scendono, saper cogliere l'azione dello Spirito che dietro i singoli fatti apre delle vie, indica delle strade, aiuta Paolo ad essere formato perché il Cristo possa vivere dentro di lui. Ecco, tutto questo permette a Paolo di vivere in maniera così intensa una pagina delicata come quella che viene descritta agli anziani di Efeso. Dice chiaramente: mi attendono catene e tribolazioni, prove e lacrime, eppure chiede di essere accompagnato alla nave per vivere questa fase del suo ministero. Grazie Carmelina per la tua domanda. Pronto? Sì, buonasera. Pronto? Buonasera, con chi parlo? Sì, sento bene. Sono Fiorenzo, buonasera. La ringrazio per quanto ci ha detto. Avevo solo, come dire, un dubbio, un chiarimento, no? Il rapporto con la parola potrebbe portarmi ad una, come dire, modalità di vita, mi lasci dire, anche se non è proprio così, protestante, cioè io e la parola. Che cos'è che mi aiuta a far sì che questo rapporto diventi invece un rapporto comunionale, come è nella esperienza di vita che faccio tutti i giorni nella Chiesa, in sostanza, no? Quindi qual è il punto, come dire, non so se c'è un punto che mi può far capire, ecco, che sto vivendo questo rapporto con la parola in modo non protestante, anche se non è il termine giusto, ma in modo costruttivo, in modo comunionale. Certo. La ringrazio, l'ascolto per radio. Grazie di cuore Fiorenzo, perché questa domanda effettivamente è una domanda molto importante. Allora, prima ho dato alcune indicazioni, no? La prima indicazione è quella di magari lasciarsi guidare dalla parola che quel giorno in tutta la Chiesa viene meditata. Noi sappiamo che c'è un ciclo, un percorso liturgico che ogni giorno ci offre una porzione di parola di Dio. Allora, vivere un momento di preghiera sulla parola del giorno, se siamo di rito romano, quella di rito romano, se siamo di rito ambrosiano, quella di rito ambrosiano, pregare con quella parola ci fa sentire non solo io e la parola, ma ci fa sentire in comunione con la Chiesa di cui noi facciamo parte, con tutti coloro che in quel giorno pregano la parola di Dio. Seconda modalità è, dopo aver pregato, cercare una forma di confronto. Qual è la forma di confronto? La forma di confronto può essere o leggere la meditazione su quel testo che ci viene offerta da questi sussidi. Questi sussidi non sono fatti per facilitare la pigrizia di chi vuole pregare sulla parola di Dio, ma per aiutare il confronto e arricchire la riflessione sulla parola. L'importante, però questo io lo sottolineo sempre, mai dare la priorità alla meditazione che viene fatta, sennò noi rischiamo di mangiare un cibo già masticato da altri. Invece no, prima io mi nutro della parola di Dio, prima mi lascio dire dal Signore quello che il Signore vuole comunicare a me, poi mi confronto e allora la mia riflessione si arricchirà grazie al confronto. Anche questo aiuta a entrare in una dimensione ecclesiale. La forma certamente più alta è quella di ricevere la parola di Dio nel contesto massimo della celebrazione eucaristica, dove il Signore ci guarda con i due occhi della parola e dell'Eucaristia. C'è poi un ultimo accorgimento che può essere il segno indicatore del modo in cui noi viviamo il rapporto con la parola di Dio, è quanto questa parola incide sulla nostra apertura, sull'apertura della nostra mente, sull'apertura del nostro cuore, sull'apertura nei confronti delle persone che incontriamo. Se il nostro momento di incontro con la parola ci aiuta ad essere aperti all'altro, al Cristo presente nell'altro, andiamo avanti tranquilli, che non c'è il rischio di quell'intimismo che può diventare autogiustificante, che può in qualche modo chiuderci nel nostro piccolo mondo. La ringrazio tanto Fiorenzo, perché la sua è proprio una domanda cruciale nel nostro rapporto con la parola di Dio. Grazie di cuore. Cari ascoltatori, dalla regia mi dicono che il nostro tempo è terminato, quindi vorrei ringraziare quanti sono intervenuti. La prima signora che non ha comunicato il nome, comunque la ringrazio, poi Caterina da Torino, Maria Stella da Firenze, Carmelina da Catania e il nostro ultimo ascoltatore, Fiorenzo. Mi approfitto questa sera per segnalare a quanti di voi vogliono approfondire la vita di Paolo e anche i suoi scritti in modo molto semplice. Vi segnalo che nel numero presente nelle parrocchie o nelle edicole di questa settimana, nel numero di Credere di questa settimana, c'è un piccolo libretto che ho scritto proprio sull'Apostolo Paolo per presentare la sua vita, le sue lettere, quello che lui consegna a ciascuno di noi, e può essere utile anche per accompagnare questa lettura degli Atti degli Apostoli. Cari ascoltatori, vi ringrazio davvero di questo nostro momento di condivisione, di voi che avete partecipato alla trasmissione, e su ciascuno di voi invoco la benedizione di Dio. Che il Signore ci accompagni sempre e che Maria interceda al suo cospetto per ottenere a tutti noi la grazia di Dio. Buona serata a tutti. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.